flibustier. Ordinamento lesbiche romane presenta. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. E allora, buonasera, siamo in studio, come si dice nelle migliori trasmissioni, Claudia e io che sono Lucilla, e stasera vi beccherete me come fonica e non so se questa cosa vi potrà fare molto piacere, però queste... Dov'è il microfono? Ah, sono qua, sì, perfetto, ci siamo. Allora... Naturalmente siamo sugli 87.900 di Radio Onda Rossa, ci potete ascoltare, come ha detto la compagna di prima, su internet e quindi speriamo che in tutti i modi vi mettiate in contatto con noi. Siamo all'interno del martedì femminista e lesbica autogestito e se volete contattare il coordinamento lesbiche romane sapete come fare, ci potete trovare in radio ogni martedì dalle 21 alle 22 allo 06 49 17 50 oppure ogni mercoledì dalle 20 alle 23 allo 06 68 64 201, il mitico numero di telefono mai cambiato del centro femminista separatista di via San Francesco di Sales 1B. Questo numero è segreteria fax. Poi per scriverci potete andare a contatti clrbp.it oppure visitare il nostro sito www.clrbp.it. E veniamo alla trasmissione di quest'oggi, che non sarà affatto leggerina, ma ve la beccate perché siamo Claudia e io, appunto, quelle che diciamo gestiamo i polpettoni del CLR. E quindi parte Claudia e sentite. E allora ciao a tutte, ben trovate e benvenute alle nuove ascoltatrici. Iniziamo con la trasmissione sulla Dea Madre. Dunque, in tempi di polemiche per la presenza a scuola del crocifisso, ma che cultura è mai quella che sceglie come simbolo un uomo inchiodato a una croce? Ci è sembrato opportuno ed antagonista proporre alla vostra attenzione la tematica riguardante la grande Dea o Dea Madre, che è posta come mito d'origine da una parte del movimento lesbo-femminista. L'esistenza di un culto della Dea, precedente alle attuali religioni al maschile, è un dato che spesso si dà per assodato e scontato, come per imprescindibile si dà il suo nesso con il matriarcato, inteso come società con al potere le donne. Ma quanto effettivamente ne sappiamo? Con questa trasmissione cerchiamo, per quanto possibile, di fornire informazioni per ampliare le nostre conoscenze ed eventualmente stimolare dubbi, riflessioni, contributi su questo argomento. Allora, la nostra ricerca si è basata sul libro Il linguaggio della Dea di Marija Gimbutas, raccolta ed elaborazione di circa 2000 manufatti simbolici provenienti da siti europei e del Neolitico antico, cioè dal 7000 al 3500 a.C. circa. L'autrice è archeologa ed insegnante ed è stata in grado di stabilire sulla base dei segni interpretati le linee caratterizzanti ed i tempi principali di una religione che venerava sia l'universo, quale corpo vivente della grande Dea creatrice, sia tutte le cose viventi dentro ad esso e in quanto partecipi della sua divinità. Questa unica grande Dea aveva tre funzioni essenziali: di dispensatrice di vita, di reggitrice di morte, di rigenerazione e rinnovamento. Principi della dea del Neolitico, la generatrice di vita rappresentata nella naturalistica posizione del parto, la dispensatrice di fertilità che influenza la crescita e la moltiplicazione rappresentata incinta e nuda, la dispensatrice e protettrice di vita o nutrimento rappresentata come donna uccello con seni e glutei prominenti, la reggitrice di morte rappresentata come un nudo rigido osso, possono essere tutti rintracciati nel periodo in cui comparvero le prime sculture in osso, avorio o pietra, attorno al 25.000 a.C. e i loro simboli, vulve, triangoli, seni, chevron, zigzag, menandri, coppelle, risalenti a un'epoca ancora più arcaica. Il tema centrale del simbolismo della dea si dispiega nel mistero della nascita e della morte e nel rinnovamento della vita, non solo umana, ma di tutta la Terra e anzi dell'intero cosmo. Simboli e immagini si raggruppano attorno alla dea partenogenetica, autogenerantesi, e alle sue fondamentali funzioni di dispensatrice di vita, reggitrice di morte e, non meno importante, di rigeneratrice. E intorno alla madre terra, la giovane e vecchia dea della fertilità, che nasce e muore con la vita vegetale. Era l'unica fonte di tutta la vita che traeva l'energia dalle sorgenti, dal sole, dalla luna e dall'umida terra. In questo sistema di simboli si configura il tempo mitico, ciclico, non lineare. Nell'arte si manifesta con segni dinamici, spirali a vortici e ritorte, serpenti attorcigliati e sinuosi, cerchi crescenti lunari, corna, semi germinati e germogli. Il serpente era un simbolo di energia vitale e rigenerazione, un'entità benevola, non malefica. Perfino i colori avevano un significato diverso rispetto al sistema simbolico indoeuropeo. Il nero non significava la morte o il mondo degli inferi, era il colore della fertilità, delle grotte umide e del suolo fertile, del grembo della dea, dove aveva inizio la vita. Il bianco invece era il colore della morte, delle ossa, al contrario del sistema indoeuropeo, dove il bianco e il giallo sono i colori del cielo splendente e del sole. Thank you. pezzo che state ascoltando è Un Dio che cade di Gianna Nannini, e questo pezzo ovviamente l'ha scelto Claudia. Se volete scriverci sms, il numero è 338 41 46 682. Ancora Gianna Nannini. Adesso riprendiamo la nostra lettura sempre dal libro Il posto e la funzione della dea. Se avete seguito il pezzo che prima ha letto Claudia, adesso è l'ovvia conseguenza, appunto, l'ovvia analogia sarebbe con la natura stessa. Attraverso la molteplicità dei fenomeni e la continuità dei cicli di cui è fatta, si riconosce la fondamentale e basilare unità della natura. La dea è immanente più che trascendente e perciò si manifesta fisicamente. Si noti che la fertilità è solo una delle molte funzioni della dea. Non è esatto definire le immagini paleolitiche e neolitiche dee della fertilità, come si fa ancora nella letteratura archeologica. La fertilità della terra divenne una preoccupazione preminente solo nell'epoca in cui si produceva cibo. Quindi non è una situazione primaria della dea e non ha niente a che fare con la sessualità. Le dee erano principalmente creatrici di vita, non veneri o bellezze, e non erano assolutamente spose di divinità maschili. L'altro termine generale prevalente per la divinità preistorica è dea madre, ed è anche questo un concetto erroneo. È vero che vi sono immagini materne e protettrici della giovane vita, e vi fu una madre terra e una madre dei morti, ma il resto delle immagini femminili non può essere rubricato sotto il termine generale della Dea Madre. Le dee uccello e serpente, per esempio, non sono sempre madri, né lo sono molte altre immagini di rigenerazione, come la dea rana, pesce o porcospino, che incarnano i poteri di trasformazione. Esse impersonano la vita e la morte e la rigenerazione, sono assai più che fertilità e maternità. Dalle stupende voci delle valentes, che significano quelle che valgono, le donne che valgono, e questo gruppo di donne solo vocale è splendido, è della Sardegna e io sono una grande appassionata. Vini poi in una cassarolla due bongo solo da stadolla e due vatu sartai hanno marre che di me su viziori di stupiviri ma ci vuole sta stupiviri povera geri piviri tariba italiva ripeto piviri c'è su a rosa bidda che non usci si vai queste cose va fai ma chi mi casa su vivere su buoni samuttoni e su macarroni su che ci oi di san bandu. Il pezzo si chiama Aio e Pappai, che vuol dire andiamo a mangiare. Pane e tutti queste cose va fai sto carrozza dita e non usci si vai tira dimmi che su piviri ehi ehi o luba pai. Cabada. Ehi, ehi, o luba pai, fra picca grua fatta o lestingu, punta mattiga, prenada, rosa e trigo, burrida e santuido, cotta o le mendula. Ehi, ehi, ehi, piviri e accabada. E ancora parole della Digin Butas. L'arte incentrata sulla dea, con la sua singolare assenza di immagini guerresche e di dominio maschile, riflette un ordine sociale in cui le donne, come capi clan o regine sacerdotessa, ricoprivano un ruolo dominante. L'antica Europa e l'Anatolia, come la Creta minoica, erano una gilania. Ora, c'è la nota gilania, significa legame tra le due parti dell'umanità per indicare una struttura sociale caratterizzata dall'uguaglianza tra i due sessi. Ora, religioni, mitologie e folklore, studi della struttura sociale dell'antica cultura europea e di quella minoica riflettono un sistema sociale equilibrato, l'abbiamo già detto. Mentre le culture europee trascorrevano un'esistenza pacifica e raggiungevano fioritura artistica e architettonica altamente sofisticata, nel quinto millennio avanti Cristo una cultura neolitica assai diversa, in cui si addomesticava il cavallo e si riproducevano armi letali, emergeva nel bacino del Volga, nella Russia meridionale e dopo la metà del quinto millennio perfino a ovest del Mar Nero. Questa nuova forza inevitabilmente cambiò il corso della preistoria europea. Io la chiamo la cultura Kurgan, poiché i morti venivano sepolti in tumuli circolari che coprivano gli edifici funebri dei personaggi importanti. Le caratteristiche fondamentali della cultura Kurgan, che risalgono al VII e al VI millennio avanti Cristo nell'alto e medio bacino del Volga. Quali erano queste caratteristiche? Il patriarcato, la patrilinearità, l'agricoltura su scala ridotta e allevamento di animali, compreso l'addomesticamento del cavallo a partire dal VI millennio. Posizione preminente del cavallo nel culto e di grande rilievo, fabbricazione delle armi quali l'arco e la freccia, la lancia e la daga, elementi distintivi tutti che si accordano con quanto è stato ricostruito come fenomeno proto-indoeuropeo degli studi linguistici e di mitologia comparata e che si oppongono alla cultura gilanica, come vi ha spiegato prima Claudia, e quindi diciamo la parità tra i sessi, pacifica, sedentaria nell'antica Europa, caratterizzata da un'agricoltura altamente sviluppata e dalle grandi tradizioni architettoniche, scultoree e ceramiche. Così i ripetuti tumulti e le incursioni dei Kurgan, che considero proto-europei, proto-indoeuropei, misero fine all'antica cultura europea all'incirca tra il 4300 e il 2800 a.C., trasformandola da gilanica in androcratica e da matrilineare in patrilineare. Le regioni dell'Egeo e del Mediterraneo e l'Europa occidentale si sottrassero più a lungo al processo. In isole come Tera, Creta, Malta e Sardegna, l'antica cultura europea fiorì, dando luogo a una civiltà creativa e invidiabilmente pacifica fino al 1500 a.C., 1500 anni dopo la completa trasformazione dell'Europa centrale. Non di meno, la religione della Dea e i suoi simboli sopravvissero come una corrente sotterranea in molte aree geografiche. In realtà molti di questi simboli sono ancora presenti come immagini nella nostra arte e letteratura, motivi di grande suggestione nei nostri miti e negli archetipi dei nostri sogni. Viviamo ancora sotto il dominio di quell'aggressiva invasione maschile e abbiamo appena cominciato a scoprire la nostra lunga alienazione dall'autentica eredità europea, una cultura gilanica, non violenta, incentrata sulla terra. Questo libro fornisce per la prima volta la prova concreta dell'esistenza di una cultura di antica data e del suo linguaggio simbolico, le cui vestigia restano inestricabilmente mescolate al nostro sistema di simboli. Cando scuro e due saluna no accudenti a s'assebiai. Questo è un altro pezzo ancora delle Balentes che si intitola, scusate la pronuncia, Les Cogas, che significa le streghe, e non a caso l'abbiamo messo. pensei, tipo primo ha fatto sa qua, o su maliva. Claudia che dice qualcosa di più allegro e io mi sento profondamente offesa perché queste voci femminili sono stupende. Magari fateci qualche trillo, mandateci qualche sms, perché così date la conferma che la scelta della musica che ho fatto io vi è piaciuta. Ci sono dei contributi che vi leggeremo. Intanto io leggo il mio perché ovviamente e poi Claudia leggerà il suo e quello a sorpresa che vi dirà lei. Oh, voglio dire che è arrivato un SMS che non ho gradito molto. La musica è bellissima questa qui e gradirei che mi venisse mandato un SMS in cui si dice: ma sì, è splendida. Comunque, tornando alla Dea Madre. Allora, la Dea Madre o la Grande Dea è un argomento che ci piace proporvi per riflettere sulle origini del mito e soprattutto se esista un mito declinabile al femminile. Badate bene, questo ve lo dico per inciso, che al nostro interno, cioè all'interno del CLR, c'è stato un dibattito su tutta questa questione e che i contributi che vi stiamo dicendo ora dopo le letture dal libro sono contributi diversi ma che stanno all'interno del nostro gruppo. E quindi ritorno al primo contributo. Perché riteniamo importante il mito? Perché è capace di polarizzare le aspirazioni di una comunità, elevandosi a simbolo privilegiato e trascendente, ma anche perché seppur concettualmente valido, sembra destinato a non trovare riscontro nella realtà, almeno dal nostro punto di vista di osservazione della storia. Quella storia, appunto, dove con difficoltà si rintracciano esempi di esistenza autonoma di donne e di collettività femminili scientificamente distrutte dal potere di turno e che oggi non vengono ricordate dalla storiografia ufficiale. Al di là dunque di stabilire se e dove è stato praticato il culto della dea madre, se e quando è esistito il matriarcato, ci interessa riferirci ai miti che costituiscano e costruiscano identità femminili forti. Le amazzoni, donne guerriere libere, sono le nostre dirette antenate e ci piace identificarci con loro. È interessante anche andare a verificare come i critici storici degli ultimi tre secoli abbiano applicato le loro idee preconcette quali parametri di analisi interpretative dei fatti accaduti precedentemente. E a conferma di questo vi rimandiamo alla lettura illuminante del libro di Paola Lupo, Lo specchio incrinato, storia e immagine dell'omosessualità femminile, di Marsilio Editore, che è già stato oggetto di una nostra trasmissione. Allora, continuiamo ancora un po' e sempre ritornando alla dea madre, eccetera, ma soprattutto alle idee preconcette, preconcettuali, vi leggiamo alcune definizioni dal dizionario italiano ragionato. Al di là del fatto che matriarcato e patriarcato probabilmente saranno oggetto di un'altra trasmissione, ovviamente pallosa, che facciamo io e Claudia, però questa è un'altra cosa, insomma. Allora, patriarca viene definito come capostipite, oggetto di venerazione da parte di tutta una stirpe, esempio i patriarchi biblici, patriarches dal greco patria, stirpe, tribù, e dal verbo archein, essere il primo. Quindi vecchio, dalla cui figura traspaia ancora oggi solennità e autorità, con riferimento a ordinamenti sociali arcaici o primitivi di tipo tribale, l'anziano della famiglia con autorità indiscussa di tutti i membri consanguinei e o affini. Si usa nella Chiesa ortodossa, più antica gerarchia cristiana. Patriarcale, proprio del patriarca, dignità patriarcale, aspetto patriarcale, autorevole e solenne. Società patriarcale, quella riconducibile alle attività agricole e pastorali proprio di un popolo guidato da patriarchi, cioè dagli anziani delle famiglie, e ne deriva economia patriarcale e vita patriarcale. E per finire, patriarcato, podestà e dignità di patriarca in etnologia, quindi denominazione dell'organizzazione sociale in cui il governo familiare o tribale spetta all'anziano ed è trasmesso in linea maschile, contrapposto a rari esempi di matriarcato. E veniamo dunque a matriarcato, da matre, forma arcaica di in, che vorrebbe dire in madre, istituzione sociale in cui la donna e non l'uomo esercita l'autorità su tutto il gruppo. Vi ricordiamo che stiamo leggendo delle definizioni dall'italiano ragionato, un dizionario. Quindi, ritornando a matriarcato, rari gli esempi di matriarcato in età storiche e solo in modo parziale in culture moderne di tipo marginale o primitivo. Mentre il patriarcato in cui stiamo ora non è primitivo, è evoluto. Nella seconda metà del secolo, questa è un'annotazione mia, nella seconda metà del secolo XIX alcune ipotesi storiche posero il matriarcato all'inizio dei tempi e considerarono il passaggio all'età patriarcale una vicenda di grande rilievo nel trapasso dalla preistoria alla protostoria. La diffusione di questa teoria costituisce l'inizio di un modo di pensare nuovo nei confronti dell'altro sesso. E dulcis in fundo, perché questa è veramente la ciliegina sulla torta, dal dizionario l'italiano ragionato, matriarca, su un modello di patriarca. Che non ti piacciono più. Bambai. E tu mi fai girare in tondo. E tu mi fai girare come una bambola. Bambola. E poi mi butti giù in fondo. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Bambola. Non ti importa se piango molto, molto né quando sono triste come una bambola. Tu non ti accorgi di me, sei tonto. Tu non ti accorgi di me, sono come una bambola. Bambola. No ragazzo, no. No ragazzo, no, del mio amore non ridere. Io non ci gioco più in tondo. E quando giochi tu sei far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo. No, non la metterò come una bambola. E no ragazzo, no. E no ragazzo, no, tu non mi metterai con quelle 10 bambole. Con quelle 10 bambole che non ti piacciono. A te non piacciono più molto. A me non piacciono più quelle 10 bambole. No ragazzo, no. No ragazzo, no, del mio amore non ridere. Io non ci gioco più in tondo. E quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo. No, non la metterò come una bambola. E no ragazzo, no, tu non mi metterai con quelle 10 bambole che non ti piacciono più. Bambola. Allora, questo pezzo che avete sentito sempre delle Balentes era una cover di Patti Pravo, naturalmente senza che vi dico il titolo. Passiamo al secondo contributo, che è quello che adesso vi leggerà Claudia, va bene? Allora, promesso che la prossima trasmissione le musiche le scelgo io, esaminiamo l'altra analisi critica che è emersa dal nostro dibattito. Il punto sta nel porre la questione della necessità di crearsi un mito d'origine. Essendo il mito una costruzione culturale, come tutte del resto prettamente maschile, consistente nel porre una verità fondante cui non siano necessarie prove storiche, noi sosteniamo che per gettare le basi di una cultura nuova, altra, non si deve partire da schemi vecchi ormai superati. In altre parole, dobbiamo creare qualcosa di nuovo e di rivoluzionario, e per far ciò non serve ripercorrere le strade esistenti, strettamente connesse con l'attuale struttura di potere maschile. Per questo non ci è necessario il mito di origine che associa la dea madre al potere delle donne. Tutte le speculazioni sull'immagine divina femminile, la dea madre ed una società organizzata politicamente sul potere delle donne si scontrano col vuoto storico, con la mancanza di qualsiasi esempio concreto. Il culto della dea madre è una realtà contemporanea al potere maschile, tratto dai damagli matriarcato e potere delle donne. Il tema della maternità e della fecondità è talmente legato alla vita, al suo significato e alla riflessione sulla morte, che non è necessario supporre che la sua presenza sia dovuta al riflesso di un'organizzazione sociale preesistente con le donne al potere, così come l'immagine della donna mediatrice col trascendente è presente nelle società più diverse. tale proposito riportiamo alcuni passi della lettera che Maria Paola ha inviato ad Ali, sito www.ali.biz, e che ci ha cortesemente permesso di leggere in trasmissione e che ringraziamo moltissimo. Parole di Maria Paola. Questa mail tratta della questione etnologica della grande dea madre, quella con le enormi tette, la Valeria Marina e il ventre voluminoso. Mi cadono letteralmente le braccia quando sento le ex femministe, gli studiosi specializzati, le lesbiche militanti trattare l'argomento della dea madre come se costei fosse frutto di invenzione femminile. Quando ero all'università ho dato 2 esami di antropologia culturale con Ida Magli. La Magli non è stata mai molto apprezzata dal mondo accademico, dalle ex femministe e dalle lesbiche militanti, perché ha sempre sostenuto che la cultura, il linguaggio simbolico e tutti i tipi di linguaggi sono stati inventati dai maschi al loro uso e consumo. E le donne, tutte le donne da migliaia di anni, sono condizionate da questa cultura, anche le femministe e le lesbiche. Sostiene cioè che è impossibile sfuggire o vivere senza i valori e i simboli culturali. Tutte le culture hanno gli stessi valori fondanti, anche la presente. A meno che un altro gruppo di donne, lei parlava di femministe, ma oggi che fine ha fatto il femminismo, non reinventi qualcosa di nuovo e condivisibile da tutti, in cui la cultura non si fondi sulla donna come oggetto, bene, segno e simbolo di uno scambio originario e fondante tra gruppi di maschi. Questo scambio simbolico, l'oggettivazione della femmina, guardare anche al concetto di omosessualità proposto dalla De Lauretis in un suo libro riferendosi alla protagonista del Pozzo della Solitudine, secondo lei, cioè Ida Magli, avviene anche nelle coppie lesbiche, soprattutto quando una delle due assume un ruolo maschile all'interno del rapporto. Per farla corta e ritornare al discorso che mi preme sottolineare, la mitologia, il culto della dea madre, è anch'esso frutto dell'invenzione dei maschi. A Creta, per esempio, il potere era comunque gestito dai maschi, così come la gerarchia sacerdotale. Quelli che contavano veramente, i direttori d'orchestra, i gestori del sacro, erano maschi e non femmine. Maschi che, adorando ed imponendo il culto di tale dea, si appropriarono della funzione prettamente femminile della maternità, per controllarla, visto che loro non erano, non sono e non saranno mai in grado di partorire. Tutto questo, a mio avviso, è confermato dal fatto che oggi la scienza medica, con l'inseminazione artificiale, i bambini in provetta, la clonazione eccetera, sta realizzando veramente il grande sogno maschile, quello di appropriarsi definitivamente della funzione riproduttiva che la natura ha riservato alle femmine, facendo a meno delle donne. Fin qui Maria Paola, che ringraziamo un'altra volta, e al cui pensiero si associa una parte del CLR, che per concludere si chiede: perché proporre un mito di origine in cui l'immagine della divinità femminile non è altro che un'ennesima proiezione simbolica maschile? Abbiamo davvero bisogno di una verità essenziale per comprendere e dare significato alla nostra esistenza? Dedicato a Maria Paola, Patti Smith, Pets That Cross. Ciao. Allora, la trasmissione è finita, questa, poi abbiamo il quarto d'ora circa di tempo libero, quindi vi salutiamo. Grazie per l'ascolto, Claudia. E grazie per l'ascolto, Lucilla, e poi diremo qualcosa sugli SMS che ci sono arrivati. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Allora, adesso, voi state sentendo nuovamente le Balentes perché sono io la fonica e vinco io rispetto a Claudia che continua a dirmi Gianna, no. Allora, ringraziamo Silvia e Melania che hanno mandato gli SMS, sono state carinissime, a una è piaciuta la musica, all'altra a una sì, a una no. Beh, non si può avere tutto dalla vita, per quella che non è piaciuta, e la prossima volta dici qualcosa di meglio, di più, insomma, vabbè, suggeriscile. Allora, detto questo, abbiamo da darvi diversi annunci. Allora, il primo, che è immediato, ma ce le volete mandare nostre barzellette? Le stiamo aspettando. Noi vogliamo fare una pubblicazione, le vogliamo pubblicare su internet, sul sito, vogliamo farci un libro e stabiliremo il premio. Ma insomma, se non ci prendiamo in giro noi, se non ironizziamo noi su di noi, ma chi volete che lo faccia? Per il resto del mondo passiamo sotto silenzio. E allora apriamo la bocca, diamogli fiato e diciamo che ridiamo e sappiamo ridere su di noi perché ci stiamo proprio tanto simpatiche. Pensate che me la sono inventata pure io una barzelletta, quindi se lo faccio io lo potete fare pure voi. Anche barzellette vecchie, accettiamo tutto. Allora, partiamo con gli appuntamenti. Le biblioteche comunali di Roma organizzano per la serie programma una settimana particolare nelle biblioteche di Roma da lunedì 24 novembre, una settimana sull'argomento eventi gay, lesbico, bi e transessuali, incontri e proiezioni sul tema omosessualità e transessualismo dal 24 novembre al 20 dicembre 2003. Le biblioteche interessate per Roma sono Appia, Corviale, Flaminia, Morante di Ostia, Villa Leopardi. E va bene, se vi interessa il programma dettagliato che c'è, potete trovarlo sul sito www.comune.roma.it o anche su www.tamless.net. Oh, l'altra cosa invece, se non so se avete notato che è cambiata la musica, la volete sentire meglio di sottofondo? Ve la facciamo subito sentire. Questa è Janis Joplin ed è un mio grande amore, un amore di gioventù. Ok, l'altra cosa che invece volevamo dirvi, l'altro appuntamento importante da non perdere è quello di venerdì 28 novembre alle ore 21 presso il Cinema Rialto Sant'Ambrogio, via Sant'Ambrogio 4, quindi zona ghetto, la proiezione del documentario di Gabriella Romano che si intitola Ricordare ed è del 2003 ed ha una durata di 45 minuti. È sull'omosessualità in Italia durante il fascismo. L'altra cosa importante è il comunicato, l'altro comunicato stampa viene da L'Una e le Altre, largo Niccolò Cannella 17, via Caduti per la Resistenza di Spinaceto, ed è l'iniziativa a sostegno del centro delle donne L'Una e le Altre, minacciato di chiusura e a difesa degli spazi di donne della città. Anche in questo caso ci sarà una mostra antologica su Silvia Truppi, esponente del Movimento delle Donne di Milano, femminista, fotografa, esploratrice attraverso le immagini delle donne. E quindi la mostra raccoglie fotografie, eccetera. E beh, insomma, venerdì 28 novembre alle ore 18, inaugurazione della mostra, aperitivo e presentazione dello spazio L'Una e le Altre. Ore 21 cena, ore 22 musica di donne con la DJ set. Questa è Gianna Nannini, avete sentita? Questa è la canzone che ha scelto Claudia. Claudia, vuoi dire che canzone è? Amore cannibale, chi la dura la vince. Vabbè, facciamo così. Comunque è arrivato un altro SMS dalla spagnola, così almeno si qualifica, ed è ha detto che ci manda un mila saluti, mila bacioni per noi. E per lei, che è sempre nel suo cuore, non nel mio, è un mondo di fiori. Ciao! È arrivato un altro SMS al volo che leggiamo rapidissimamente, viene da Maria Paola e dice: aiutatemi a liberare i Damagli dal suo smarrimento. E vabbè, noi ci proviamo. E rapidamente un'altra cosa, voi sapete che giovedì della scorsa settimana abbiamo fatto l'iniziativa al Buon Pastore, al Centro Femminista Separatista, per l'autofinanziamento, una proiezione di film, è andato bene. È una presentazione di un libro. Volevamo ricordarvi che il mese prossimo, cioè nel mese di dicembre, ci sarà una nuova iniziativa con proiezione di un altro film che sarà stratosfericamente stupendo, questo che è ovvio. ma oltre a quello ci sarà anche oltre alla proiezione del film, scusatemi, stanno entrando le compagne di Liberamente che proseguiranno dopo di noi e che noi salutiamo contente, e l'altra festa ci sarà appunto a gennaio, sì, buonanotte, a dicembre, e faremo una proiezione e poi giochi di Natale per salutarci prima di Natale, anche se io e Claudia siamo contrari alle feste, lo sappiamo, lo diciamo sempre, ma per l'autofinanziamento questo può essere buono. Allora vi salutiamo insieme alle compagne di Liberamente che sono già arrivate e già visto e ciao ancora a tutte da Lucilla. No, Claudia risaluta, avevo spento il tuo... Allora ciao a tutte da Claudia, alla prossima trasmissione molto allegra. Ok, ciao ciao. Femminista autogestito presenta...